Rodrigo de Vion, qua la tazza capitano, non bevo più, che noia questo sorso, no, guarda, oggi impazza tutta il Cipro, e la notte di gioia, dunque, cessa, chiamar del cervello per un acqua potato, e ancora per te, alle nozze d'Otello, e da sole, questo lito ascolta. Col vago suo raggiar chiama i cori a raccolta pur modesta e sai tanto tu iago canterai le sue lodi lo ascolta io non so che un critico e della donna in lode più bella da quel Cassio che temi ehi favella già con troppo bonore la gagliardo giovinezza sprona e l'astuto seduttore che ti ingombra il cammino vada e me sei silenzio hai perduto fallo per qua ragazzi dal vino innaffia l'udola trincata la canna prima che svampino canto il chiel questo del pampino verace vada di vaga e volante miei pensieri che adesca morso del dittirambo starai in questo ramo beva con me, beva, beva, beva, beva, beva, beva, beva, beva con me. Questa bolso del mio salto è stato beva, beva, beva, beva, beva, beva, beva. Il mondo palpita con mio sombrino sfido l'ironico lume il destino come l'armonico di muto stillo la gioia scalpita sul mio colline la pesca morsa vigilia d'amore. Io è di ciò che mi spinge. Un po'. Si può. Si può.

ucciderò. E veste vinto meglio a riso. Vidi. E il fazzoletto. Otto didi. Via alla riva. E condannato. Viva. A chiumami un veletto questa notte. Il tuo scopo. Io soffocarla là nel suo letto, là dove ha peccato. Questa giustizia tua mi piace. A Cassio Iago profeterò. Iago, figliuolo mio capitano, te leggo. Mia voce grazia mi rendo. Ecco gli ambasciatori. Accogliete, ad evitar sospetti, Desdemona si mostri a quei messeri. Sì, qui la voce. A voi non trovo Cassio. Colui crucciate Otello. Credo che in grazia tornerà. Ne siete certa? Che vede? Rilegge, non vi parla. Forse che in grazia tornerà. Iago, lo spero. Dunque nella tua cuoci perdonate signore che non io taci onore, onore la mente mia non osa pensar che io vi dicevo a me Cassio che senti quando la mente giunge a Cristo e suo questo dolce l'eroe questo guerriero palesa il tuo pensiero meglio è tenere su ciò la lingua lunga ecco è lui che l'animo ti saluta mentre

fingite, Otello, lo sa allora Maria che ogni sento chi non si scorde contro me, Otello, e se Thank you. diceste questa sera le vostre preci? Uccidere non voglio l'anima tua. Sì. Sua mano lo vidi. Io non so. Confessa. Giuro. Madre lo spezzuro. Pensa che sei sul tuo letto di morte. Per morire. Per morir posto. Mentitrice, io uccisi assassino fu di Cassio da Druda Iago il Chieri Iago stolto e tu credeste legando artici non ti temo.